Blue Time Live. Live. Sono le 21 passate da 12 minuti, un po' in ritardo, ma il ritardo è giustificatissimo questa sera perché insomma siete tantissimi poi in studio quest'oggi e quindi ci sono tantissimi cavi, cavetti, cavettini, cuffie, cuffiette, microfoni, insomma la stanza è piena di accessori giusto per fare questa splendida serata dedicata a questo musical straordinario che vi ricordo compie 40 anni quest'anno, quindi una cosa straordinaria, veramente pazzesca, e poi la bellezza di questo musical. Però prima di tutto ovviamente il mio più cordialissimo buonasera nelle frequenze di Blue Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spalaore che anche questa giovedì sera sarà qui presente per farvi questa serata, come dico io, indimenticabile, dicevo poc'anzi, perché abbiamo pensato assieme al mio fedele compagno, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo pensato di farci questo regalo, un regalo strepitoso, un regalo incredibile, un regalo meraviglioso che penso Maurizio faccia piacere anche a te ovviamente. Ma indubbiamente, assolutamente, io sono dentro nella fossa di leoni, ho sentito le prove, vedi caso, quindi ho i brividi, assolutamente. Sarà quindi una serata all'insegna della musica rock, soprattutto di questa opera rock, cioè Gesù Cristo Superstar, che non ha bisogno di tantissime presentazioni. Invece delle presentazioni le devo fare per quanto riguarda la nostra emittente, cioè www.bluradioveneto, il nostro sito.it ovviamente. Se ci volete leggere, ascoltare, perché no, in streaming, basta che cliccate semplicemente nella nostra home page, sulla sinistra c'è scritto appunto ascolta la radio e lì ci ascoltate 24 ore su 24. So che ci sono tantissime persone già in ascolto, io le saluto già cordialmente, che sia una serata all'ascolto di questa musica dal vivo, poi oltretutto è una cosa pazzesca. E poi ancora vi ricordo le nostre frequenze 88 e 794 e 600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora i nostri numeri, quello in studio, il numero telefonico è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms, se ci volete mandare questa sera, insomma credo sia bellissimo riceverli, sapere anche cosa ne pensate di quest'opera, vi ricordo è il 346 23 20 0 33, ve lo ripeto 346 23 20 0 33, e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto una, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che come sempre salutiamo caramente, ciao Alberto Prisco. Credo di aver detto tutto. Insomma, se ci volete mandare anche i vostri messaggi nella mia pagina di Facebook, siete liberissimi di farlo, cioè Agostino Spalaore, io vi leggo e li leggerò direttamente a questi personaggi che sono qui questa sera. Prima di tutto però bisogna prendere il pullman, vero Maurizio? Eh sì, un pullman molto importante stasera. E lo prendiamo. Certo. you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Drop, please, will let me drop. right here and what's now. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's what happening. Right what's the here bus? Now. Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. Yeah. What's the bus? Tell right me what's happening. What's now. The bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. It seems to me a strange thing, mystifying, that a man like you can waste his time on women of her kind. Yes, I can understand that she amuses, but to let her kiss you, stroke your hair, that's hardly in your line. It's not an eye tattoo and professional, but she doesn't fit you well with what you teach and say. It doesn't help us if you're an inconsistent. They only need a small excuse to put us all away. Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave, leave her, let her be now. Leave, leave her, she's with me now. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, siamo entrati nel clima, Maurizio, hai visto? Hai sentito, sì, sì, meglio sì. Dire. Sì, ho sentito, sono dentro la Fossa e tu dei hai Leoni. Anche visto? Ho visto, ho sentito. Quando uno è dentro la Fossa dei Leoni, è come si medesimasse proprio con loro, è quello importante. Poi, insomma, hai visto Carl Anderson italiano? Sì, ho visto Carl Anderson italiano. Ho visto come si dimenava sul palcoscenico. Hai visto Vittorio Matteucci. Ciao Vittorio, benvenuto. Ciao, a Bruno. Ciao a tutti. Mi dispiace di non avere spazio invece per dimenarmi. Non avete visto niente. Io ho visto qualche scena che gira su YouTube di te che canti quella canzone di Giuda, insomma. Veramente non stavi mai fermo. Ma no. Tu non stai mai fermo di tuo, però, No. Devo aver preso dal mio babbo. Sì? Sì, sì. Neanche in chiesa stava fermo. Ma sul serio, camminava in giro. Comunque, bene, sono contento di essere qui. Buonasera, Ciao, Vittorio. Bello. Finalmente ci vediamo, Agostino, bello. Carissimo. Allora, insomma, Maurizio, diamo un benvenuto a tutti i personaggi che ci sono qui questa sera, perché sono tantissimi, cominciando appunto da Vittorio Matteucci con Giuda, che farà la parte di Giuda. Poi Gesù invece sarà Pino Pinato. Ciao, Pino. Ciao a tutti. Non viene a salutare qualche microfono, anche quello lì davanti a te, se vuoi. Quello davanti a te. Anche quello lì. Ragazzi, Pino. Buonasera. Ecco. Buonasera, Pino. Buonasera. Lui è il tecnico. Una voce come si deve. Sì. Lui è il Ted Neely praticamente della situazione. E poi ancora, dimmi. No, preferivo Ian Gillan, però. Anch'io. Siamo rocchettari. Parliamo del film, esatto. Poi ancora Ivon Elmo, invece Madrina Maddalena sarà Saba De Rossi. Quella non è mai cambiata rispetto al primo disco. Ciao a tutti. Ciao Saba, ben ritornata dopo. Grazie. L'esperienza con la musica sacra e profana del periodo pasquale dell'anno scorso, che ci è venuto a trovare, ci ha regalato una serata piena di emozioni con la sua voce. Poi Pilato invece c'è Cesare Maggiolo. Buonasera a tutti, buonasera. Pietro invece sarà Stefano Balsano. Ciao, buonasera a tutti, ciao. E Simone è stato. Ah, è stato. Beh, non avete intenzione di riprenderlo? Solo 11 anni fa è stato. Anzi, 12. È stato e sempre sarà. Non avete intenzione di riprenderlo? Ma ci piacerebbe tanto, ma ci siamo anche ingrassati tutti. Per quello. Ma sul palco non si nota, dai. Diventa Jesus Christ Super Pants. Ho capito. Allora, vogliamo parlare di questa opera. Parlo con te, Vittorio, chi vuole esprimere la propria opinione. Come è nata innanzitutto la vostra compagnia e perché avete messo in scena questo grande musical? L'idea principale non so veramente a te quale mente malata abbia pensato questa cosa. Nel senso che era Alvaro. Qualcuno Alvaro Gradella. Alvaro Gradella, sì. Allora, c'è una persona che si chiama Alvaro Gradella, che tutti noi conosciamo. Certo. Doppiatore, uomo di radio, fra l'altro, anche. che a un certo punto ha detto: ma perché no? Poi lui era assessore all'epoca, sì, allo spettacolo. Era assessore allo spettacolo, esatto. Quindi ha potuto, infatti, concertare questa cosa, infatti, e aveva appena finito la sua conduzione a Stereonotte, quindi... esatto. Antonio Micheli fu affidata la direzione artistica di questo progetto. Antonio trovò le voci, insomma, ci trovavamo un po' di volte a fare delle prove, ma il gruppo era micidiale. Mi ricordo poi... lo scouting che fece Antonio, andava a sentire tutti nei locali, terribile. Suonavamo con gruppi punk, new age, reggae. Funky. E lui si è fatto 7 mesi di ascolti di 25.000 gruppi padovani e alla fine ha scelto il meglio. Beh, insomma, ora non è che lo dobbiamo, però in effetti come gruppo, come gruppo era micidiale proprio, perché non c'era, ma poi senza parlare di musicisti, perché 13 musicisti dal vivo, ora credetemi, io sono tanti anni che faccio il teatro musicale, però musicisti dal vivo li ho visti una volta sola, vero, in 10 anni. Parlavamo con Antonio. La vera volta che li ho visti è stata qua. Parlavamo con Antonio, appunto, il lavoro certosino che è stato fatto all'epoca per trascrivere tutte le parti, gli spartiti, dividere le parti, perché insomma, sì, quanti eravamo sul palco, quanti erano a suonare loro? 13. Ora non mi ricordo. I famosi, però, 13 dell'ultima cena. Bravo. No, però hanno fatto un lavoro da orchestra, da 60 elementi, è una cosa veramente titanica. Sì. Titanica. C'era appunto Guido, che fra l'altro è qui con sì, noi. Sì, Guido Rosa. Guido Rosa. Tastiere, sì, esattamente. Poi Beppe Bertolino, che faceva per due chitarristi, perché la usciva in stereo praticamente. No, perché la partitura prevedeva due chitarristi, un acustico, un elettrico, e lui riusciva a fare tutte e due le cose, salti mortali, contemporaneamente. Praticamente un chitarrista siamese. E poi c'era Francesco Garbin, che aveva tutta la programmazione dei suoni, quelli diciamo campionati, no? Poi Danilo Favaretto al basso elettrico, Diego Vergari alla batteria, e poi ci avevamo le trombe di Daniele Cesarotti e Gianluca Carollo, i tromboni di Gian Matteo Carollo e Mauro Carollo, e poi Enrico Barchetta al corno francese. Perché ridi, scusate? No, niente. E poi vi ricordo anche le coreografie e la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi e le scene e i costumi di Marco Strano. E il non dimenticato mai, grande regista, Nin Scolari. Sì. Che tra l'altro, parlavamo l'altra volta facendo le prove, Nin... più volte disse: ma si potrebbe fare una versione acustica di questo musical, verrebbe bene, eccetera, eccetera. Sì. E poi eccoci qua. Esattamente. Abbiamo pensato stasera, poi c'è voluto un po' di tempo. Sì. Beh, senti, visto che li abbiamo, manca solo il coro. Sì. Giuliana Diserò, Marta Chiesura, Tania Gallinaro. Poi c'era tuo fratello Tony Maggiolo. Stefano faceva tutto, Mauro Perazzolo, e sì, poi l'abbiamo detto, Stefano Concheri, Caifa, Luca Chiereghin, Erode, Mauro Donà, che questa sera e quindi volevo proporre un'intervista telefonica, ma ha 46 e mezzo di febbre, va oltre il limite della sopportazione. Si fonde la cornetta, si fonde il telefonino. E poi ovviamente i danzatori della compagnia Padova Danza. Se avesse un filo di voce si potrebbe comunque chiamarlo. Mauro, se ci stai ascoltando, manda un messaggio, ti prego, ti supplico, chiama in radio, perché abbiamo già finito tutta la scaletta delle cose da dire. No, per una volta possiamo anche dire il nome dei ballerini, che di solito i ballerini sono senza nome. Bravo. Perché sono una compagnia: Monica Bertocco, Margherita Bergamo, Laura Cannarozzo, Marco De Meo, Filippo Gabellini, Mauro Gasparini, Simonetta Mazzuccato, Martina Mariani, Claire McManus, Caterina Pellizzari, Alessia Rizzo e Nicoletta Zarbini. Voglio dire che questa è una produzione mostruosa, assolutamente padovana. Ci sono un miliardo di persone. Esatto. Ed è stata fatta con veramente 10 lire. Pochi mezzi. Ma 10 lire, ma delle idee e una qualità di base che erano superlative. Perché io ve lo posso proprio, cioè, ci metto la firma a ritrovare un gruppo così. Poche cose, però il teatro è questo. Ah, certo. E perché è difficile, fondamentalmente difficile, riprendere un musical assolutamente rock come è sempre stato Jesus Christ Superstar, che l'idea era un'idea rock, poi è stata sviluppata in musical. Però Tim Rice, Weber e Rice avevano quell'idea, musicalmente parlando. È una bella sfida. E anche mettere assieme gli strumenti e le voci non è semplice, è difficile, è completamente, è strano, è complesso. Sì, diciamo che non avevano una storiella. No, esattamente, assolutamente no, la storia più importante del mondo aveva. Quindi era una grande responsabilità. È stata un'esperienza stupenda. Umanamente, musicalmente, professionalmente, in tutti i sensi. In tutti i sensi, sì. Poi siete rimasti amici, vedo. Beh, si suona insieme da 20 anni. C'è niente da fare. È stata Saba a proporre questa cosa, sì. Ed è stata micidiale perché ci ha riunito tutti, perché ognuno ovviamente va un per le cose sue. Niente, però tutti con grande entusiasmo abbiamo risposto, accettato. Sì, ci mancherebbe. Poi in versione acustica, quello è il bello, in versione assolutamente acustica. Diciamo che lei sta, sì, lì la... Il problema è stato quello, perché abbiamo pagato fior di quattrini questi due musicisti. Parla vicino, al microfono. Principalmente dobbiamo ringraziare Beppe e Guido, che sono qui stasera, perché si sono ripresi in mano tutta la partitura e l'hanno riadattata per questa occasione. Quindi tanto grazie, di inchino. Ecco, sai come fa Saba? Dai, facciamo acustico, Jesus Christ, sì, radio 2 ore, sì. Evviva! Cosa le dici? Beh, no, guarda Saba, ci sono dei problemi. No, ma no, non è un problema, andiamo. I problemi si risolvono subito. Si sono risolte, sì, esattamente. Infatti. L'importante è la musica. La musica risolve tutti i problemi. Un chitarrista e un tastierista e poi le voci. Comunque tutto è nato a Pasqua dell'anno scorso, durante la trasmissione abbiamo accennato, poi alla fine, se ti ricordi Saba, io te l'ho richiesto, la facciamo, sì, mi hai detto, sì dai che lo facciamo, lo mettiamo in funzione, e così è stato. Sì, ci avevamo provato in agosto, ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo, poi sì. Poi alla fine ero via proprio io. Ecco. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Siamo qui, è importante avere qui questi tantissimi amici. Allora, facciamo ascoltare. Stavo ancora. Sto facendo un conto dei mesi, aspetta, voglio la sponsor. Un anno è passato. Mesi più altri tre. Vabbè. Allora, facciamo ascoltare ancora qualcos'altro del musical. C'è Saba adesso. Sì. La protagonista è Saba. Everything's alright. Esattamente. Sentite che voci. Molto, molto nera, molto nera. Assolutamente. Se vi vengono i brividi a casa, è normale. Prego. Everything's fine, and we wanted to sleep well. Gesù si abbandona alla dolcezza di Maddalena, le sue mani spalmano balsamo sui capelli, sul corpo e sull'animo di Gesù. La sua voce culla lì il riposo di chi si è caricato il peso del mondo sulle spalle. E stanotte tutto va bene, giusto? Giustissimo. E com'era recitare? Sabato, tieniti il microfono. Com'era recitare Maria Maddalena? Terrificante, perché quando le prime volte che facevamo questo, io non ho una preparazione teatrale, vale, quindi certo, quello che ho imparato l'ho imparato, no, perché oltre, oltre a cantare dovevate anche recitare, quindi esatto, insomma, la mia parte è abbastanza marginale, però quando c'era Vittorio che si avvicinava, no, dicendo hey woman you're fine, e io mi nascondevo dietro a Gesù, perché facevo paura. Avevo proprio l'occhio. Beh, Giuda era proprio disgustato che tu gli spalmassi ma il basso. Sì, Giuda era un estremista, era un fondamentalista. Il problema di Giuda è che era anche un po' geloso. Ah sì? Sì, come la vedo io. Non un po', tanto. Lui era molto geloso, però alla fine, perlomeno, come l'ho vista io, come preparazione rispetto al personaggio, io ho sempre pensato che Giuda fosse una parte del meccanismo, cioè predestinato esattamente come Gesù. La parte scura del meccanismo. Ma infatti, però Giuda, tanto è vero, anche a un certo punto chiede perché hai scelto me per il tuo crimine. Esattamente. Sanguinoso. Ma infatti, Vittorio, ci sono paesi del mondo in cui questa opera è vietata, non viene rappresentata, sì, proprio perché insinua questi dubbi, queste cose che non sono proprio, non seguono proprio il dogma cristiano, certo, cattolico, certo, eccetera. Quindi ci sono ancora angoli di mondo in cui Gesù Cristo superato non si può vedere, non si può rappresentare. In Molise. Per questo motivo qui. In ogni caso, Weber ha avuto un'idea geniale musicalmente parlando, perché ha unito una ballad, una canzone pop cantata Yvonne Elliman, al gusto nero di Giuda, in questo caso di Vittorio, il Carl Anderson, quindi il gusto nero, la black music, il soul, praticamente ha unito le due componenti, e questa è l'idea geniale, secondo me, di Weber in questo musical. Sì, musicalmente sì, è stato proprio grande. D'altronde, se si pensa a un musical rock, a me viene in mente questo. Poi Rocky Horror Picture Show, c'era anche Tommy. Sì, ma non è proprio il problema è che lui in giarrettiera non stava bene, perché sennò no. Rocky Horror poi c'è, vabbè, la piccola bottega, sì, certo, vabbè, insomma, niente di rock. Questo è il numero. Ma fondamentalmente ci sono stati due opere rock. Questa è Tommy. Tommy, sì. Esattamente. Assolutamente. È venuto dopo, però. Fondamentalmente Tommy e Jesus Christ hanno dato la scossa, secondo poi me. Poi c'era solo Elton John, c'era solo Tina Turner, sì, voglio dire Clapton, Robetta. Ma nel primo disco c'era anche Gary Glitter, da presente. Sì, è vero. C'era Gary Glitter, grande. Esattamente, Gary Glitter, che all'epoca era il glam rock, era un genere molto importante. Il glam rock era spettacolo nello spettacolo. Poi io sono stato un fan dei Kiss. Allora. Praticamente sono nati da quella. Infatti poi faremo Rock and Roll All Night acustico. Ah, ottimo, sono perfettamente d'accordo. Comunque è veramente bello. Ecco, voglio dire, i personaggi noi li abbiamo costruiti proprio tanto in questo... Quanto abbiamo fatto di prove? Mesi. No, ma proprio... Insieme a provare... Beh, prove... Parlate vicino ai microfoni per cortesia. 3 mesetti sicuri. No, di più. Ma tu parli delle prove generali, tutti insieme. Abbiamo fatto un anno di prove separate. Esatto. Ogni voce, il cori, Antonio Micheli ha preso le ragazze, i ragazzi li ha chiusi a casa sua per tre giorni. Sì. Senza mangiare e senza bere. A scudisciate, sì. Il lunedì. E fino a che non è venuto quello che chiedeva lui. No, ma anche Antonio è febbricitante. Se ci sta ascoltando, ti prego, Antonio, chiama in radio, perché dici la tua. Anche tu fossi senza voce, chiama. Sentiremo silenzio e sapremo che sei tu. Ci parli al telefono con l'alfabeto dei segni, noi capiamo. Sì, lo ridiamo. Diamo il numero di SMS, che magari ci manda un SMS e poi lo chiamiamo noi. Allora, gli SMS, se volete mandarci i vostri pareri, poi anche le vostre domande, se avete qualcosa da chiedere ai nostri artisti di questa sera, vi ricordo gli SMS 346 23 20 0 33. Lo ripeto, 346 23 20 0 33. Se invece volete chiamarci in studio, vi ricordo 049 875 6423. Ma tu hai detto, al di là dello scherzo, la segregazione, ma è importante, il produttore deve forgiare le voci, quello che deve fare il produttore, è fondamentale secondo me. Certo. Devi portare a un certo tipo di voci, l'idea è quella. Nessuno si era mai cimentato, nessuno si era mai messo in gioco così tanto come quella volta, come quando abbiamo fatto noi. Perché ci siamo ritrovati di fronte a pubblici importanti. Siamo stati a Milano, siamo stati in giro Bolzano, Cortina. Cioè abbiamo lavorato veramente in posti che non, nessuno si immaginava, tranne Vittorio, che ormai no, era già paludato. No, per me è stata la prima. Esatto. No, lui vabbè, poi, io facevo la televisione. Partito in quarta. Però come in teatro, per me, io infatti tutte le volte me lo chiedono, dico, la prima opera non è stata Notre Dame. Io è dico vero. Proprio la prima opera è stata vero, Jesus Christ Superstar con una compagnia, aggiungo, con una compagnia tutta padovana, nel senso che proprio voglio sottolineare questa cosa, è stata una cosa straordinaria, ma non come dire straordinaria come direbbe Maurizio Costanzo, straordinaria per davvero, la moglie della Filippa, cioè, esatto, fuori dell'ordinario. E quindi la prima opera veramente in cui poi, oh ragazzi, mettersi in confronto. Certo. Lui con Ted Neely o Ian Gillan. Io con Carl Anderson. Che, insomma ragazzi. E poi Saba con Ivon stiamo parlando del top del top nel certo. mondo. E poi tu hai detto una cosa giusta. Il discorso di provenire da determinate cose diverse. Tu avevi già una certa esperienza, ma loro provenivano dal punk, dal blues, dal rock, quindi era un po' diverso il discorso, era un po' complicato. Sì, però quando si deve poi tirare fuori dentro, poi ma comunque tutti musicisti di lungo corso, certo. Cioè non è che eravamo alla prima esperienza, tutta gente che sapeva fare il proprio mestiere. Ma come si può avvicinare una partitura di Weber? Parliamo con i musicisti, come ci si avvicina alla adesso partitura di Weber? Adesso faccio parlare con io voglio sentire il con Guido, che sia il chitarrista e sia il tastierista. Si gira al contrario, sì. Tanto che è tutto dal vivo, è tutto quindi... anche girare il microfono. Esattamente. Dimmi. Beh, diciamo, Intanto buonasera a tutti, buonasera. Sono Guido. Alla partitura. Sentite che vocione. Esatto, sì, attenzione sui 100. Alla partitura ci siamo avvicinati praticamente 6 mesi dopo l'inizio delle prove, cioè a un mese dal debutto praticamente, perché per motivi burocratici gli spettatori sono arrivati in quella data. Certo. È assolutamente un'opera molto complessa, anche perché ci sono dei cambi di tempo, dei cambi di tonalità. Ovviamente l'Overture propone tutti i temi del musical che poi vengono ripresi, incrociati in altre tonalità, quindi deve esserci un'attenzione molto molto sempre in funzione delle voci, sempre in funzione delle voci, ovviamente. Poi essendo un'opera rock non c'è mai un momento di silenzio, esattamente nel musical, un parlato, qualcosa, quindi c'è sempre una tensione costante. E soprattutto c'è anche un balletto, quindi ci vuole una precisione ed una diciamo capacità di supportare non solo diciamo chi canta anche scenicamente, ma anche chi balla, e quindi diciamo sicuramente è stato impegnativo. In questo sicuramente la regia di Nin Scolari ci ha aiutato moltissimo, e ci ha aiutato moltissimo sicuramente Antonio Micheli, che comunque proveniva da un'esperienza importante diciamo nella gestione di un gruppo esteso, che sicuramente diciamo fa parte del background di un direttore di un'opera di questo tipo, e che è uomo di assoluta diciamo attenzione, cultura e pignoleria, per usare un eufemismo. Il nostro chitarrista, dimmi. No, sì, a proposito di Nin, intanto buonasera, sono Beppe, e mi scuso per la voce, sono un po'... Perché tu ammalato? Un po' ai minimi termini con la mia voce da qualche giorno, comunque portate pazienza. Nin Scolari è stata una persona direi determinante per questo spettacolo, perché era sempre presente, dava consigli, era una persona affabile, e quindi in quel senso Pino sta distruggendo lo studio nel frattempo. Scusa. No, non fare così. È tutto dal vivo, anche fa parte del live anche questo. Questo coso gigante. Dimmi, scusami. E quindi è stata una persona indispensabile alla buona riuscita dello spettacolo, e in questo senso dovessimo farne ancora ci mancherebbe moltissimo, chiaramente. E per il resto sono d'accordo ovviamente con quello che diceva Guido, che è stato un lavoro micidiale. È stata, per quanto riguarda me, il sottoscritto, è stata una delle cose più difficili che abbia mai affrontato. Non tanto per la tecnicamente come approccio allo strumento, perché le parti non sono tecnicamente, almeno dal mio punto di vista, così, ma nell'insieme, nella globalità della parte, perché come diceva Guido ci sono cambi di tempo, tempi dispari che si incrociano con tempi pari, cambi di tonalità, poi si torna un macello. Quindi c'è voluto molto rispetto, prima di tutto da parte mia molto rispetto per una partitura così complessa e così incredibilmente varia, e molta attenzione e molta pazienza, perché lo richiede, lo richiedeva e lo richiederebbe ancora se lo mettessimo in scena ancora, cosa che forse qualcuno di noi si augura e lo farebbe con molto noi abbiamo già piacere. abbiamo già formato un club, e siamo promotori del ritorno in scena del vostro gruppo con questo musical. Oltretutto è un piacere vedere, per me aver rivisto, cioè, tutti tocca quanti buttare di... tocca buttare giù 27 kg ragazzi. Vittorio, che ci conosciamo da una vita, non abbiamo avuto molte occasioni di lavorare insieme, ma questa è stata fenomenale, è stata incredibile, quindi... L'hai rivisto qui in radio? Sì, no, beh, ci siamo rivisti anche qualche giorno fa per fare una... Bella prova, una provina così di... Certo. Bene. Solo una cosa, volevo sottolineare il tuo modo di suonare la chitarra, molto percussivo, molto come avessi la batteria, Ah sì, mi piace suonare, cioè quando ho l'acustica in mano, in questo caso... E questo ha una funzione fondamentale stasera, visto che la batteria non c'è, cioè l'acustica che fa da batteria è chiaramente il testino. Sì, nello spettacolo non suonavo in maniera diversa ovviamente, perché con una chitarra elettrica, in qualche parte l'acustica, e poi con un'orchestra così numerosa, insomma era richiesto cose diverse, però insomma sì, stasera funziona così. Perfetto. Poi c'era, se posso... Il ricordo più bello che io ho di questo spettacolo, oltre all'impegno che ognuno di noi ha messo durante la preparazione per il musical, è stata però la complicità che è nata tra tutti quanti, e che con grande piacere vedo che continua. E poi poi scusate, vedere Pino teso è una novità. Vedere Gesù teso in diretta davanti a 20 milioni di spettatori. Allora questo lo devi far pesare al maestro Micheli, perché ma lo farò pesare. È colpa sua se tu sei teso. Lo prima aspetto che guarisca e dopo lo faccio pesare. Guarda che ti stanno ascoltando anche in Australia, eh. Adesso sono più calmo. Non sto scherzando, tu credi che scherzo, ma è la verità. Allora, facciamo un break dopo questo balsamo passato sui capelli. I giudici decidono di far morire Gesù con la canzone This Jesus Must Die, questo Gesù deve morire. Vi ricordate la scena, il sinedrio che si riunisce? Nel frattempo però lui arriva a Gerusalemme e viene accolto trionfalmente dalla povera popolazione oppressa. Caifa intima a Gesù di dispersare la folla o la sedrà come se fosse una rivolta. Gesù replica che è una manifestazione spontanea e inevitabile, al punto che se anche loro smettessero le rocce e i sassi continuerebbero a parlare. Quiet, we anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. At the crowd, nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna! For yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, Vittorio, parlando a microfono spento, io gli ho chiesto, ma che difficoltà era a predisporre un musical, uno spettacolo simile? Vittorio ha detto una cosa positiva, molto interessante, adesso me la dice al microfono. Sì, che tutto. Tutta la gente che è venuta a vederci intanto amava moltissimo questo spettacolo, perché questo è uno spettacolo di culto, e poi era legato indissolubilmente alla versione cinematografica. Esatto, tutti hanno visto il film e quindi noi dovevamo recuperare quella che era l'anima primigenia dello spettacolo, perché in realtà lo spettacolo nasce in teatro e non al cinema. Al cinema trova però, per me, per come la vedo io, la sua dimensione più bella. Ha avuto un grande regista, però. Sì, ha avuto un uno che sapeva fare le cose. Norman Jewison. Esatto. E questo spettacolo in teatro ha una cosa che è al tempo stesso un limite e una cosa positiva, cioè il fatto che il limite gli mancano gli spazi aperti del cinema, però la cosa positiva è l'intimità, perché il teatro rende sempre questa cosa, le cose rimangono lì, i sentimenti quindi si amplificano. Sì, poi una delle trovate di Nin è stato geniale, è stato quello di tenere tutti i personaggi in vista durante tutto lo spettacolo, tutto lo spettacolo. Cioè, non c'era un momento di riposo, di ritorno ai camerini, o eravamo sul palco dall'inizio alla fine tutti quanti, con delle postazioni particolari, ognuno poi si presentava al pubblico per fare la parte, per cui già pesante di suo. Mamma mia. Cantare una cosa ricordo in più tutte le persone erano la forma del palcoscenico voluta da Marco Strano, lo scenografo, che era un palcoscenico a forma di croce. Sul montante della croce eravamo disposti noi, appunto, tutti belli lì ad aspettare il nostro momento, e quindi in costume, quindi c'era una tensione che doveva essere necessariamente continua. Dall'inizio non potevi mollare mai, non è che ci si poteva vedere uno seduto sulla che si calcolava, non era proprio possibile, cioè dovevi stare lì sul pezzo sempre 2 ore, quanto dura, concentratissimo e anche convincente. Sì, perché devi trovare, non è che potevi essere lì per caso una figurina, dovevi essere sempre te, anche se, e questa è la genialata, anche se magari non partecipavi all'azione. E poi un'altra cosa per me fu geniale di Nin, fu il finale con le croci, cioè una cosa, guarda, se ci penso ora mi viene da piangere, perché era proprio, c'erano croci che si alzavano dappertutto, sì, entrava nel pubblico, dava fino le croci in mezzo al pubblico, molto forte, molto forte, ma anche la croce, il palo dove si impiccava Giuda, che diventava la croce di Gesù, era una, lo veramente stesso palo. E poi la stessa cosa, tutti i pezzi che no, vabbè, no, dimmi. No, c'era il tavolo, perché è questo, sì. Tavolo dell'ultima cena, le assi del tavolo dell'ultima cena formavano la croce di Cristo, e c'era tutto un legame anche simbolico ma materiale, fisico, tra le cose, perché l'idea del musical, secondo me, è l'idea di Cristo umano, decisamente, e si collega con la buona novella di De André, quindi un Cristo umano, e quello è il motivo fondamentale del grande impatto che ha avuto, secondo me, il musical. Comunque, e poi c'era l'idea di Giuda come protagonista. Sì, è vero. Sì, beh, la storia è praticamente... Io mi chiedo a Cesare, se non è vero che noi, ovviamente, e ci emozionavamo di brutto tutte le sere. Assolutamente. Ma proprio mezzi morti eravamo. Io so che tutte le sere, quando partiva il quartetto di archi, che spero vivamente... sul finale della morte di Gesù lo sentiremo, perché è un pezzettino piccolino, quando partiva quella cosa, io che poi ero legato, mi ero impiccato su una parte che poi diventa la croce, anche lì è tutto, no? Il simbolo è la stessa cosa, è la stessa parte del sacrificio, no? È l'altra parte del sacrificio impiccato, no? E io lì che gocciolavo lacrime, ma sul serio, non è ora sto facendo la cosa, sai, della radio no, è proprio vero, è proprio vero. E poi si era creata una cosa fra me e Pino strana, nel senso che proprio questi personaggi ci erano entrati dentro nel sangue. E poi ti ricordi che salutavamo insieme alla fine, sì, ti baciamo sempre, che salutavamo insieme alla fine, proprio per sottolineare, semmai non fosse stato, che non i personaggi, c'era protagonismo, i personaggi erano tutti allo stesso livello e si salutava tutti. Beh, l'idea insieme, penso, di anche di andare sul pullman tutti assieme, parte anche quella, è l'idea dell'ipis, cioè praticamente della libertà totale, west coastiana, quindi anni 60, anni 70, l'idea è quella, c'è poco da fare. Certo, il discorso... però, riuscire, la regia appunto grandiosa, riuscire a riportare tutti questi simbolismi e queste azioni a dei padovani, peraltro, ragazzi. Ma è la stessa croce che ti sei impiccato, Vittorio, è anche quella che poi scendi da, mentre c'è la canzone simbolo del musical. Sì, è tutto uguale. Sempre gli stessi pezzi. Da dove scende lui, poi alla fine parte la crocifissione, che è proprio l'ultimo pezzo. Che sono già morto, ovviamente, suicida, prendo il montante, monto la croce e lui. E Gesù viene crocifisso su una parte della mia, del mio sacrificio come conclusione e sulle tavole dell'ultima cena, che è in effetti è l'inizio di tutto, no? Sì, è l'inizio della fine, certo, è l'inizio della fine. Finisce sempre a tavola. Sì, è vero questo. È vero. Va bene, facciamo ascoltare qualcosa della vostra produzione di Simone. Sì, sì, un saluto a Mauro che ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando, quindi questa è una... Chiama Mauro. Allora, questa è la canzone che Simone canta, insomma, a Gesù. Lui è l'apostolo forse il più infiammato del gruppo ed è circondato dai suoi seguaci che vogliono veramente che Gesù sia, cioè declamano la loro ammirazione per Gesù. Credo sia una delle scene dal punto di vista film, una delle scene più belle dell'intera produzione, secondo il mio punto, modestissimo punto di vista. Questi ballerini che ballano in mezzo alle rovine, che poi tra l'altro sono rovine originarie, che non sono state create apposta. No. Volutamente originali, sì, in Israele hanno girato il film. Sono quindi. Proprio sì. Quindi in Israele, esatto, è stato fatto presso la cosiddetta erba è stata creata volutamente perché avevano affittato un podere a un contadino e per un anno il contadino ha praticamente fatto crescere l'erba. Sì, poi insomma siamo documentati un po', io e Maurizio abbiamo scoperto tante cosine dentro al musical che sono veramente cose straordinarie. Intanto però prima ci ascoltiamo la canzone che Simone chiede a Gesù. You will rise to the greater power. 50,000. Not the Romans, nor the Jews, nor Judas, nor the 12, nor the priests, nor the scribes, nor doom. Jerusalem itself. Grande, grande, grande questa scena, bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuta tantissimo. Insomma. Chi è che la faceva così, che vi insegnava praticamente le movenze? Sempre comunque il regista? Sì, beh, era lui che coordinava tutti i movimenti di scena e le entrate. Ma voi vi siete guardati il film diverse volte per capire i personaggi, a somiglianza? Oppure... Ma ti dirò, no. No, anzi ci ha proibito, non copiate niente dal film perché vi dico io dove dovete andare. Ci siamo dati solo dei riferimenti, ma poi tutto il resto è nato fra di noi, sì. Che bello, che meraviglia questo. Allora, Blu Radio Veneto con voi questa sera, con questi amici sono venuti a trovare per proporci l'omaggio ai 40 anni di questo musical e di questa opera incredibile, insomma, Jesus Christ Superstar. Io non ho ancora scoperto, forse non me l'avete detto voi, non lo so, forse non ho capito bene, ma la vostra compagnia poi alla fine come si chiamava? C'è qualcuno che ha le cose che fischiano, le cuffie alte che fischiano? Sì. Dicevo... Come si chiamava la vostra... là, fischia tutto. Sto abbassando. Sto abbassando. No, ma forse era... No, devi toglierla, devi metterla oppure la cuffia. Ops, questa, scusa. Questa. Siamo in diretta, assolutamente in diretta, non fateci caso. Sì, ragazzi, sono partiti. Dimmi, scusa, cos'è che avevi detto, Agostino? Niente, avevo chiesto il nome della vostra compagnia. Perché non avevate accennato, non avevate un nome ben preciso. Risultava come compagnia Padova Danza, perché fisicamente era stato destinato come spazio, eccetera, a coordinare il tutto la sede di Padova Danza, di Gabriella Furlan, eccetera. Mm-hmm. Quindi risultava quello. Come no, nome, ma la compagnia non abbiamo mai formato una compagnia. Non avete mai formato, vi siete trovati così per fare... Eravamo la compagnia dell'anello, nel senso che ci siamo messi insieme, punto e basta. Non... Cioè... No. Beh, belli da morire però. Quante repliche avete fatto poi alla fine? Quante abbiamo fatte? Io ne ho fatte meno, purtroppo. Perché poi ti hanno sostituito? Una ventina. Sì, una perché ventina. Io ci ho avuto Notre Dame. Sì. Un poco di più di una ventina, sì. Ci ho avuto Notre Dame e quindi non ho più. Però ragazzi, ne ho fatte. Io mi pare. Io ne devo aver fatte 12-13. Sempre 13 questo numero che ritorna. E poi voi ne avete fatte un'altra 7-8, sì, mi pare, no? Continuato fino al 2002, mi sembra. Sì, 2002. No, beh, il spettacolo era bellissimo. E non vi viene voglia di rifarlo? Cioè, non so, io... Se fossi in voi... Sapessi quante voglie ci abbiamo. Io se fossi in voi lo rifarei. Sarà che io sono di parte perché io amo l'amati questo musical, però insomma... credo. Anche quello. Beh, sì. Diciamo che dopo Jesus Christ noi siamo partiti. Allora, vari elementi poi hanno continuato con queste produzioni. Abbiamo fatto un musical su The Wall, su Pink Floyd. Un musical ecco su un'altra cosa che si Blues Brothers. Brothers. Abbiamo fatto un musical sui Queen. Sui Queen. Per cui, bene o male, lo zoccolo duro dei ragazzi. Ha continuato praticamente. Possiamo chiamarli ragazzi. Beh, certo, si può, possono chiamare sempre ragazzi. Abbiamo continuato fino al 2010, mi pare. Come in musical. Con queste produzioni. Qual è il problema? Che probabilmente per portare in giro delle repliche continuamente, appunto, serve un supporto sia logistico che economico e quando. Finché ci sono, poi finisce tutto. Beh, certo. Devi inventarti qualcosa di nuovo per proporre, magari riprendere. Tu considera che anche stare fermo uno spettacolo costa. Immagino. Dove le metti le scenografie? Dove le metti? Dovrei prendere un magazzino dove mettere le scenografie. Il magazzino costa. Sì. Quindi è tutto complesso. Dove li metti i costumi? È un problema grosso. E siccome... lo sappiamo, non è che ci vogliamo piangere addosso, però non è che ci sia tutta questa attenzione verso il mondo dello spettacolo, che poi è una delle poche cose che invece ci danno proprio un po' di respiro, perché se non ci avessimo, non so, il circo, il teatro, che ogni tanto, vero, ci respiriamo, ci evadiamo completamente. Ci fanno evadere. Io ho provato ad andare allo stadio un paio di volte. Non è che mi ultimamente che mi poi molto no, infatti. Lì più che evadere ti carcerano direttamente. Esatto, al contrario. No, quindi ce ne sono tanti di musical che si sono fermati proprio per questi motivi. Io ne cito uno solamente perché tra l'altro ho anche avuto la fortuna di vederlo assieme a Maurizio, tra l'altro, sì. E cioè We Will Rock You, che era spettacolare, imponente, però anche loro si sono dovuti fermare perché i costi erano altissimi. Beh, senti, noi abbiamo fatto l'anno scorso I Promessi Sposi, un sacco di date, però poi a un certo punto uno spettacolo troppo grosso, troppo importante, quando vai via con sei bilici, alla fine non ce la fai proprio col prezzo, che poi fra l'altro vuoi fare una politica giusta, mantenere il prezzo del biglietto popolare in modo che tutti vengano a vedere, non ce la fai, se sei da solo non ce la fai, e considera che noi eravamo con Michele Guardì, un uomo oltre che lungimirante anche di una certa disponibilità, ecco, anche perché è stato anche il produttore, no? Certo. E adesso per esempio il prossimo a ottobre debuttiamo con un'altra grossa produzione che è Romeo e Giulietta, e speriamo si incrocia le dita, perché quando grossa vuol dire un sacco di soldi, un sacco di gente, anche solo la gente. Ma per quello dicevo prima, siamo incredibili, perché eravamo 1 miliardo di persone, poi fra l'altro tutti per proprio per amore, sì, assolutamente, tutti per, bravo. Diciamolo, la passione, diciamolo, bravo. Perché qui non c'è nessuno che non solo si è arricchito ma proprio anzi, nulla gli abbiamo dato quindi è stato proprio bello, proprio bello anche per quello, insomma, anche se quando uno diventa professionista come il falegname pagnotta, non ti va a fare un mobile gratis, ecco invece noi sì. Noi siamo diversi dagli altri, perché intanto noi si canta e quindi gratis, ma come gratis? Ma Vittorio, cantare non sarà mica un lavoro, dai. No, in effetti c'era Mastroianni, diceva: a me mi pagano per giocare. Va bene, torniamo alla musica, torniamo con il sogno di Pilato, che ce lo canta Cesare, sono io, ciao. Ariecheme. Il sogno di Pilato. Il sogno detto di Pilato. Anche, detto anche Cesare Pilato. Cesare Pilato. Sì, beh, c'è da dire questa cosa, no? È proprio nell'immedesimazione che avevamo nei personaggi, mentre lavoravamo, provavamo, eccetera, ci chiamavamo molto più spesso con il nome di scena cioè, che con il nostro. E poi c'ho un aneddoto da raccontare su questo, gustoso, poi magari se vuoi cantare prima poi ce lo racconti, ma come volete, io raccontalo già, ve lo racconto. Sì, certamente. Allora succede questo: il giorno della prova generale agli impianti del plebiscito, dove poi abbiamo debuttato, no? Era il 24 di giugno del 2000, poi vi capirete perché me lo ricordo così bene. Forse ho già capito. Ecco. Allora, alla mattina io mi preparo per andare a queste prove generali, scendo, eccetera. Mia moglie era incinta della mia figlia più piccola. Sto per uscire, mi fa: oh, ci siamo. Come ci siamo? Gli ho detto: aiuto. Allora, vabbè, ho detto, cambio di programma repentino, prendo la porta all'ospedale, però ero d'accordo con Luca, che era Ghin, che interpretava Erode, di passare a prenderlo per andare insieme a queste prove, che abitavamo nello stesso quartiere all'epoca. Allora, mi rendo conto che nel telefono non ho il suo numero, però mi ricordo che Stefano Concheri Caifa aveva il numero di Luca. Allora, chiamo Stefano di fretta, provo ad immaginare lo stato d'animo di quel momento, e lo chiamo, la telefonata è stata questa: pronto, Caifa, sono Pilato, per cortesia potresti dire a Erode che non posso passare a prenderlo, perché mia moglie sta per partorire. È fantastico. Quell'altro mi ha ascoltato un secondo di silenzio, poi mi ha detto: oh, ma ti rendi conto, fa, che se hanno intercettato sta telefonata abbiamo la camicia di forza tutti e tre di casa. Pazzesco. Ecco, E l'ho portata in ospedale. Sì. In ospedale, come spesso accade, le doglie si sono fermate. Sì. Allora le ho detto, Silvia, attenta, io ho le prove generali. Cioè, non puoi scherzare. Sì, sono partito, sono volato al plebiscito, sono riuscito a fare una prova intera. Ho cantato l'ultima nota della mia parte del processo finale di Pilato e mi è squillato il cellulare. Sono fiondato in ospedale e sono riuscito ad arrivare in tempo. È stata una cosa che ricorderò, penso, tutta la vita. Ecco, penso che siano in ascolto Anna, la piccola, Giulia, la grande. Ti è così, lo salutate tutte e due. E saluta che la moglie è Silvia. Esatto. Ecco, e questo è stato. Pensa quanto mi sono immedesimato nella cosa in quel momento lì. Beh, e come hai fatto a lavartene le mani poi alla fine? Hai capito com'è? È difficile. Va bene, dai, ci ascoltiamo questo sogno di Pilato che sta riflettendo appunto su questo sogno premonitore denso di significati che ha fatto riguardo all'incontro appunto con il suo Galileo. Sì, ecco, anche questo, come diceva Vittorio riguardo Giuda, anche Pilato, questa rotella del meccanismo indispensabile, tanto che lui dice qua succedono delle cose, mi sogno delle cose, ma poi danno la colpa a me, ma perché? Certo. Giusto. I dreamed I met a Galilean, most amazing man. He had that look you very rarely find. The haunted eye. I asked him to say what had happened, how it all began. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Il sogno di Pilato. Ma insomma, come ti sentivi nelle panni di, nei panni di Pilato? Tu ci vedevi proprio? È un personaggio che ti piaceva? Sì, beh, mi ci sono immedesimato, ti dico la verità. Anche se all'inizio Antonio mi aveva interpellato per selezionarmi per il ruolo di Simone Zelota, poi però aveva libero questo ruolo e anche il ruolo di Pilato, mi ha detto beh, preparati anche Pilato, va così giusto perché per... alla fine sono risultato più adatto al ruolo di Pilato al posto di in base alla voce, scommetto. In base alla voce, certo, certo. Eccetera eccetera. Quindi nessuno di voi ha scelto il proprio personaggio, tutti no, della... siamo stati interpellati per Io mi sono piantato, ho detto voglio fare Gesù. No, perché sai, c'è Giuda, c'è Vittorio che vuole fare Gesù. No, io voglio fare Gesù. No, perché no, è venuto naturale. Questo. No, ma erano proprio le voci giuste. Sì, è venuto a sentirci. Gesù neanche se mi avessero levato. Non tu ce volevi la facevo. Volevi fare Maddalena, di la verità. No, io volevo fare proprio Giuda, perché per. Dovete sapere che io da piccino, quando avevo 9 anni, ho visto questo spettacolo, ho visto al cinema, la mia sorella mi portò a un cinema all'aperto a Livorno a vedere, durante l'estate, a vedere Jesus Christ Superstar. E io rimasi completamente folgorato da Carl Anderson, ma folgorato, poi sono rimasto folgorato per il resto della vita, però folgorato, tanto è vero che quando si cantava a macchina con i miei fratelli e sorella più grandi, io cantavo sempre, continuamente, questa on the screen, what's the name? Puoi immaginare, senza inglese, poi da piccino. Ma ero proprio malato di Carl Anderson e l'ho vissuto con tale amore che poi quando me lo sono ritrovato, per me è stato proprio importante non deluderlo. Era come se io avessi a che fare direttamente con lui, tanto mi era entrato nel sangue. dovevo farlo proprio bene, tanto è vero che conoscevo tutte le sfumature della sua interpretazione, che era magistrale, numero uno in assoluto del mondo. Io non mi ci avvicino neppure. Una cosa, poi vabbè, piccolo episodio, mi capitò che lui venne a vedere Notre Dame a Genova e fu una cosa bellissima, perché venne dietro e facemmo sta fotografia ricordando la mia cosa, insomma fu una cosa incredibile. Ed era un uomo di una semplicità, come succede sempre quando sono grandi, di una semplicità estrema, cioè normalissimo, tranquillo, bello, insomma, ecco. Questo te lo confermo anch'io, non perché l'ho conosciuto, ma perché qualche cantante che è passata in questa emittente ha fatto i corsi che lui dava come lezione, insegnava lui canto e faceva dei seminari anche oltretutto, e le persone che andavano a conoscerlo di persona, tutte avevano questa impressione tua, Vittorio. È così, perché quando hai consapevolezza di te, sei un autocritico feroce e fai il tuo mestiere di musicista, alla fine non conosci l'agonismo, perché ognuno è a modo suo. Io sono a modo mio, Pino è a modo suo, Saba, Cesare, Stefano, così come i musicisti. Non c'è gara tra chitarrista e chitarrista. Ognuno ha la sua mano, il suo tocco, il suo modo, il suo suono. È così. Quindi sarebbe bene che questo modo che c'è, soprattutto noi ragazzi, giovani gruppi che si vanno a vedere sperando che quell'altro sbagli da solo. Questo succede solo in Italia, però sì. non all'estero. Insomma, all'estero fanno le jam station. Esatto. Io so che noi siamo però diversi. Noi qui che siamo qui questa sera, sì. Siamo diversi. Beh, certo. Perché ci interessa proprio, e anzi, il fatto che sia venuto fuori Jesus Christ Superstar a Padova è stato proprio per questo motivo. Certo, una cosa negativa, non so se dirla negativa, di Carl Anderson, che tutti quanti se lo ricordavano solo come Giuda, ma non ha fatto solo quello, no, ha fatto tante altre cose. Ma purtroppo era talmente grande il successo che è rimasto un'icona per tutti come Giuda. Purtroppo ricordi Drop of Water? Sì. E pensare che non ha mai preso un premio per non questo. Non ha mai preso nulla, sì, premio per questo mio. Sono stati candidati sia lui che Ted Neely al Golden Globe del 74, insomma. Sì, ma beh, perché? C'è un motivo. Perché essere il protagonista Giuda era difficile, non era solito, non era normale. Quello è il motivo che secondo me non ha avuto i premi che meritava. Poi perché, ragazzi, era anche nero. Era anche nero, quello è importante. L'epoca, anche quello. La scelta di un nero a fare il peggio cattivo del mondo, anche per sottolineare il fatto che non c'era proprio, non c'era visione del colore da parte di chi ha scelto, allora, ma soltanto del colore della voce. Insomma, interessante questa cosa. Ragazzi, Antonio Micheli ci scrive: vi sto ascoltando, siete fortissimi, ma risparmiatemi, sono ancora poco lucido. Antonio, tu non sei mai completamente lucido, davvero, che vuol dire? Ti voglio davvero bene. Oh, che Antonio, bello. Non sei poco lucido. A me hai detto che stavi poco bene, ma quando uno dice sono ancora poco lucido, la birretta. un bacione, Antonio. Andiamo al tempio, cosa dite? Andiamo al tempio. Sì, andiamo sì. Al tempio, andiamo al tempio. Vai. Ha fatto un poveretti, si è arrabbiato. Si è arrabbiato di brutto lì, eh. Ma insomma, si è trovato avanti una scena pazzesca. La riviviamo. Thank you. temple should be a house of prayer. But you have made it a den of thieves. My time is almost through. Little left to do. After all I've tried for 3 years, seems like 30, seems like 30. Eccoci qui ancora in diretta, sono le 22.36 con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con questi amici che magari li vogliamo ricordare, se trovo il foglietto da qualche parte, che sono tantissimi i nomi. A memoria, va bene. Allora, Giuda, Vittorio Matteucci, questo non posso sbagliare, poi Gesù, Pino Pinato, Maddalena, c'è Saba De Rossi, Pilato, Cesare Maggiolo, Pietro e Stefano Balsano, Simone Zelota e Mauro Donà, e poi i musicisti abbiamo alla chitarra Beppe Bertolino e le tastiere invece c'è Guido Rosa. Grande. Hai visto? Grande. Maurizio. Sì, parlavamo sempre del discorso di Carl Anderson, parlavamo che Weber, cioè Weber, più che Weber, il regista ha voluto un Giuda Nero, l'interpretazione era straordinaria ed era difficile, era complicato avere un Giuda Nero, era rompere degli schemi e quindi non è semplice. rompere degli schemi. All'epoca si parla del 1972-73, non eravamo così avanti, c'erano ancora delle difficoltà, però il discorso di partire con un pullman hippie, arrivare con un pullman hippie, rompeva gli schemi, la jam session, i fili di fiori, quindi la libertà totale. Cosa dici, Vittorio, e tutti gli altri? Sì, mamma mia, è stato clamoroso. Però io voglio ricordare una cosa, che mi pare all'epoca ci fosse Paolo VI. Sì. E non fece una piega. Sì, questo è vero. Paolo VI neanche commentò, non fece una piega, perché capì, credo, la grandezza di questa cosa qua, di questo spettacolo, di questo che poi alla fine è un spettacolo. Però il fatto che la storia di Cristo diventasse appannaggio di tutti quei giovani che, insomma, a un certo punto la potevano anche disconoscere, no? Perché comunque si era indirizzate verso altre forme, certo, altri lidi, altre idee. E invece questo proprio l'ha riportato in auge potentemente. E d'altronde, se vogliamo proprio dirla tutta, il messaggio è il messaggio rivoluzionario per eccellenza, no? Certo, Cristo è il primo rivoluzionario della storia, sempre stato. Beh, lo dico sì. E quindi, insomma, è stato tanta roba quel film lì, proprio tante cose, è stato tutto insieme. Poi si sa che un evento del genere non è mai soltanto una cosa. Quando si tratta proprio di eventi storici come questo, devono avvenire in quel momento storico, con quelle persone, è tutta una congiuntura che fa sì che quello spettacolo sia il più ricordato forse nella storia dei musical, ed altri magari belli, ugualmente importanti e profondi, vengono completamente dimenticati. Secondo te, che importanza il film, quanta gente ha portato in teatro? Un sacco di gente, tutti praticamente. Tutti. Il film è stato una straordinariamente importante per le compagnie teatrali. Un traino pazzesco. Un traino pazzesco. Pazzesco. Ma vabbè, io ora sembra che la voglia dire per far vedere. Ma, insomma, fa parte della mia esperienza, ma se non ci fosse stato il gobo di Notre Dame di Disney, il Notre Dame de Paris probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo. Lo dico con tutto rispetto per Riccardo Cocciante, mi levo il cappello, però la verità è che molti bambini erano già abituati, avevano già la materia in mano, sapevano di che cosa si parlava. Quel gobbetto lì era tanto simpatico, era eccezionale, eh? E quindi ecco là che il film fa da traino ad uno spettacolo teatrale che è, vabbè, quel che è. Però è così che succede, quando però le cose sono costruite, mi dicevi prima, no, che hanno voluto loro che uscisse prima lo spettacolo al cinema e poi, giusto? Quando c'è una strategia intelligente, allora tutto concorre per il successo dello spettacolo. Le repliche, le centinaia di repliche che concorrono continuano in tutto il mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che è uno spettacolo che non ha tempo, al di là delle compagnie, al di là dei personaggi, al di là delle voci, non ha tempo. Prende l'attenzione sempre di tutti, generazioni diverse. Si sa, la storia più importante mai raccontata, mai vissuta, chiaramente. E anche proporre Cristo come uomo, proprio umano, e Giuda che ha le stesse debolezze. E quello è fondamentale. La partitura, lo scritto di Rice era importante anche per quello. Abbiamo già parlato dell'importanza della partitura musicale, ma anche lo scritto, il testo di Rice, coniugare il testo di Rice così forte, così potente, a una partitura così complicata da parte di Webb, è stato un capolavoro assoluto. Poi Webb ha fatto altre cose, chiaramente, ma non è mai arrivato a quei livelli là, secondo me. Altre cose totalmente diverse, ma quello è rimasto, non si ricorda soprattutto per quello, e poi il resto, secondo me. Quanti anni ha adesso Webber? Secondo me sui una settantina d'anni. Settantina, quindi nel 79 era giovane, non era giovanissimo, no? Ma infatti questo è uno spettacolo di una mente giovane che scrive che è dentro al mondo del rock. Sì, era dentro il mondo del rock. Il rock è giovane, è sempre giovane. Poi non di caso. Lui poi diventa il fantasma. Sì, certo, poi fa tante altre cose. Diventa melodico, diventa pucciniano, ma dopo, prima è bello tosto. Ragazzi, ma le chitarre com'erano? Veramente, erano un miliardo di chitarre. Un discreto numero di sovraincisioni di chitarre, quindi un gran lavoro, un intreccio chitarristico, seppur con i suoni dell'epoca, con la tecnologia dell'epoca, che sicuramente non era quella odierna, ma le parti erano ben intrecciate e anche ben congegnate. Ma a maggior ragione, voglio dire, non era facile per lui ritrovare no, i suoni vintage, assolutamente no. Vintage di quell'epoca lì. Hai detto una cosa giusta, suoni vintage. Mancavano, si parla del 2000, il musical del 72. Mancavano 72. Proprio anche i pedali per fare quelle cose lì. Sì, infatti mi sono indebitato fino alla morte. No. No, c'è bisogno di un certo tipo di attrezzatura a livello di elettronica, di pedali, ma proprio devono essere cose che rispecchiano la tecnologia dell'epoca per avere quei suoni lì. Quindi parlo di, per chi ascolta e capisce di queste cose, i fuzz, sì, come si dicono, che sono i distorsori, i primi distorsori dell'epoca, che con transistor al germanio, che producono quella sonorità tipica zanzarosa, che allora io ricordo per me, e che ho un'età che comincia a essere imbarazzante ormai, però quando iniziavo a suonare nel 72, questi suoni qua non mi piacevano, perché avevo in mente altre cose. Mi piaceva il suono di Santana, i fuzz in se stessi come suono era troppo zanzaroso dal mio punto di vista, mentre al contrario ha acquistato fascino negli ultimi anni, anche grazie al fatto di essermi avvicinato a questa opera e quindi aver riscoperto anche quel tipo di suoni. E dobbiamo dire anche che c'è un ritorno al vintage anche dal punto di vista delle sonorità. Per esempio i Pearl Jam, che è un gruppo che ha sempre portato avanti un discorso di vintage, nonostante sia un gruppo di adesso, un gruppo straordinariamente importante, però ritornare al discorso del vintage, quel suono pulito, non rare, costruito, era un suono ideale, cioè il suono vero. Certamente la stessa cosa si può dire per i suoni di tastiera. Certo, i ragazzi Guido e Francesco hanno fatto un lavoro incredibile, perché a parte l'acquisire la strumentazione, i suoni, i campionamenti, tutte le cose, non è, cioè in questi anni qua, almeno 13 anni fa, è stato, non dico pionieristico, ma cioè un ritorno a quella è chiaro, quella realtà. 72, ricordiamo Emerson, Lake & Palmer, sì. Quindi più chiaro di così. Cosa c'è previsto adesso? Saba? C'è Saba è pronta. Saba che ci fa venire i brividi adesso. Ma qui insomma c'è una canzone, forse una delle più famose. Penso sì, il 45 giri del film è questo. Esatto. Sì. Credo sia veramente questa dichiarazione d'amore, che lei non sa veramente come amare Gesù. Giusto, Saba? Mi sarebbe piaciuto vederti interpretarlo proprio anche dal punto di vista attrice. Non è stato per niente facile, perché partendo dal presupposto che io non ero e non sono tuttora un'attrice, tentando di entrare, no, nella testa della Maddalena che viveva questa situazione così confusa, queste emozioni così contrastate, non era facile. Non era facile, perché non è solo cantare una canzone. Okay? Devi anche trasmetterla, insomma. Hai capito? Piano piano, però... Ti sei medesimato. Sì. È una cosa che mi è piaciuta tanto anche durante l'esecuzione del musical, durante la preparazione soprattutto, è che ci si scambiava le critiche, ci si commentava. No, guarda, era una cosa che a me piaceva tantissimo, perché, come diceva prima Vittorio, non c'era assolutamente antagonismo. Ognuno aveva il suo e quindi... Io ricordo che una volta ho azzardato una critica a Vittorio a testa bassa e con tanta... Io ho detto, ma caspita, io che faccio una critica al Matteucci, oddio. E la soddisfazione è stata che mi ha ascoltato e allo spettacolo successivo, a Merano, mi ricordo, dove c'è stato... Tu eri, che hai fatto i 190 e non so, non credo di essere arrivata... Ah, sì, sì, sì, sì, in autostrada. In autostrada è 190, sì, sì, siamo sì. arrivati a Merano in un'ora e mezza. Perché arriva la multa perché... in... Adesso è retrodatata. Grazie, grazie. No, è successo così. Quello spettacolo, allora, ricordiamo che noi comunque tutti quanti facevamo i nostri lavori, le nostre cose, poi nel tempo libero, siccome non eravamo contenti di essere tranquilli, ci incasinavamo la vita a, a provare, a fare, a raggiungere le date più lontane, eccetera. E quel pomeriggio, cinque di noi, eravamo in cinque in macchina, sì. mi pare, no? Cinque svenuti, svenuti in macchina. Non avendo potuto partire la mattina con il pullman perché avevamo da fare le nostre cose, il lavoro, eccetera, abbiamo dovuto partire tipo all'ora di pranzo, però dovevamo arrivare entro l'inizio delle prove perché poi, cioè, finita l'orario delle prove non si provava più. E quindi io mi sono fatto il segno della croce, giustamente, e sono partito come un pallettone. Un'ora e mezza siamo ho preso le parole più brutte che si potevano prendere, però ho portato tutti salvi fino a lì. Sì, ma eri in missione per conto di te. Bravo. Tra l'altro sì. mi ricordo che al ritorno nessuno volle montare con me. Chissà perché. Tranne, attenzione, tranne Vittorio. Ecco. Vittorio, sempre... Lui disse no, vengo io con te, non ti preoccupare. Si fidava. E facemmo il viaggio a 80 all'ora, perché io non sono un corridore, non sono mai stato, no, sono passato per il sì, pazzo. Vabbè, ma hai bruciato il motore della Ferrari, ti ho prestato l'altro giorno. E invece tornammo io e lui tranquilli, discorrendo del più e del meno, arriviamo un'ora in Vereconda, ma chi se ne frega. Va bene. Quando questo tu... era uno degli aspetti bellissimi, a mio avviso, del musical, no? Perché io che ero digiuna di qualsiasi nozione teatrale, potevo solo essere aiutata, infatti, un po' da Vittorio, un po' da Nin, che allora fai così, fai colà, ma cerca di nasconderti dietro a Gesù, ma non avere paura di Giuda, che non mi riusciva mai di non aver paura di Giuda, perché dovete, quando entri in azione il Giuda vero fa paura. Ecco, per cui è stata una grande, grande esperienza e anche, mi piacerebbe ribadirlo, la preparazione che abbiamo avuto, i cazziatoni anche, del buon maestro Micheli. Che ricordiamo questa sera. Sì. Aspetta che mi tolgo. Ci odierà. Prego. Thank you. Come troppo buoni, sei tu che emozioni, no? Noi siamo troppo buoni. Hai una voce che è bellissima. Tra te e Ivon Animan forse c'è poca differenza. C'era Mina, in mezzo c'era Mina che l'ha fatto a Mille Luci un po' di anni fa, ti ricordi? Che lei ha fatto, sì, Maria Maddalena, sì, a Mille Luci, sì. Uno show straordinario all'epoca di radio, di, della rete prima della Rai. E lei ha interpretato Maria Maddalena alla Mina, cioè il suo modo di fare. In ogni, sì, caso, Saba ha fatto un'interpretazione meravigliosa. Già il pezzo è meraviglioso per se stesso, vero Vittorio? Emozione in ogni caso. Quando... Sì, perché è il brano. È il brano portante. In assoluto più conosciuto di tutta l'opera. Esattamente. Proprio perché... Ma poi era un po' anche l'epoca, voglio ricordare, insomma, era l'epoca delle grandi voci country, sì, americane. Certo. C'era John Baez, era quel mondo lì e questo lo interpretava in maniera favolosa e questo era proprio il brano più, in assoluto anche adesso, il brano più conosciuto di tutta l'opera. Beh, anche, anche proprio la stessa Jesus Christ Superstar comunque è molto conosciuta. Sì, però così, il punto questa... è che questo è l'unico brano, è il brano melodico. Melodico, melodico, esatto, cioè, melodico. Questo lo canti anche quando stiri. Sì, sì. Questo, sì, lo canti quando dipingi casa, mentre, certo, Jesus Christ non lo canti quando dipingi casa. No. Era il lato B del 45. Esatto. Sempre per sottolineare l'età. L'età, l'età. Benissimo, adesso cosa ci proponete? Visto? Ma adesso passiamo alla... L'ultima cena. Ma l'ultima cena la saltiamo perché sono quasi 118 kg. No? Poi vista l'ora, insomma, dopo cena. Dopo l'ultima cena cosa succede? Vuole dire che l'ha fatto, un si po' lunga, ritrova magari un povero uomo da solo, perché erano tutti belli che avanti, e vi canta questa canzonetta. I only want to say? Yes. E io... Nel mio piccolo, se posso esprimere il mio modestissimo parere, è la canzone che mi piace di più in assoluto di tutto il musical. Questo. Non so perché, ma forse anche la scena, vedere questo lui che sale su questo monte, che va, si rivolge a Dio, che dice: ma perché devo morire? Voglio solamente parlare, non voglio fare altro, non perché devo morire. È una scena che mi è rimasta in mente, ogni tanto me la rivedo, anche prendo il DVD, me la metto su, perché Ted Neal è qui. Fa un po' tristezza perché questo capisce che proprio non c'è via che d'uscita. Non c'è via d'uscita. C'è via d'uscita. A te l'ardua sentenza. Allora. Giuda decide qual è la sua via d'uscita. Sì, sì, certo. Ma lui la sa, però non può farlo diversamente. Cosa di peso. Prego. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed another shirt as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know my God, I'd wanna know my God, I'd wanna see my God, I'd wanna see my God. Have to know my Lord, have to know my Lord, have to see my Lord, have to see my Lord. Why should I? Why? Why? sad and tired. After all I've tried for 3 years, seems like 19. Why the hell am I scared to finish what I started? Won't you start? I didn't start. God, thy will is hard, but you own every card. I will drink your cup of poison. Nail me to the cross and break me, bleed me, beat me, kill me. Take me now before I change. Bravissimo, bravissimo. Io posso dire una cosa: noi facciamo tanti live, che non c'entra niente con Jesus Christ Superstar. Comunque, noi facciamo tantissimi live durante la sera e di solito gli applausi li facciamo alla fine. È un omaggio che facciamo all'artista che ci vede. Questa sera la stiamo facendo continuamente, quindi è un'esplosione di applausi. Perché io spero che a casa si stiano divertendo. Qualcuno, secondo me, qualcuno fa anche la lacrimuccia. Beh, insomma, chi ha visto questo film, che ha 40 anni in più, insomma, quindi. Soprattutto quelli della nostra generazione, no, ormai tu ne hai tantissimi. Io ne hai tu 62, 63, non netto tu. No, non ho ancora passato i 60 anni. In ogni caso, voglio sottolineare una cosa: l'estensione vocale incredibile che hai avuto per fare questo pezzo. Che difficoltà, come l'hai provato? Quante volte l'hai provato fino all'inverosimile? Allora, questa è la ragione per la quale Antonio, quella sera, ascoltandomi dal vivo, ha detto. Gesù! Perché è una cosa naturale. Naturale. Ma provieni da... Hai fatto dell'hard rock te? Ho fatto un po' di tutto. Ho fatto dell'hard rock, ho fatto... tutto tranne la classica. Ho studiato un po' di jazz. Però diciamo che l'estensione è una cosa che hai naturalmente, per cui non è... Per quanto spingi. Ma quanto... Antonio, che paletti ti ha messo quel giorno? Ma nessun paletto, tranne quello di imparare i testi a memoria. ragazzi, è dura. È dura. Gliel'ha piantato uno qui. Dimmi, dimmi. No, il paletto gliel'ha piantato in fronte, c'è ancora la cicatrice. C'è ancora. No, comunque ricordo che Antonio a tutti noi a un certo momento mise un paletto importantissimo, perché appunto provenendo da rock band, sì, dove certo. Anche l'improvvisazione dal vivo era all'ordine del giorno, ci disse sì, bello, bravi, però ricordate che la caratteristica di portare in scena un'opera come questa è fare delle cose che fondamentalmente devono essere sempre quelle. Divertitevi a girarci intorno, ma alla fine lì dovete stare, perché altrimenti noi, presi dall'entusiasmo, avremmo sì, interpretato ogni volta in maniera diversa. Lì mi ricordo ci diede proprio un out molto preciso. Benissimo. 23.02, abbiamo già passato 2 ore all'insegna della musica di Jesus Christ Superstar, però non abbiamo assolutamente finito, noi continuiamo. Adesso cosa ci proponete? Io farei una cosa, farei tradire, non è un tradimento, sì è un tradimento, Pietro anche lui ha rinnegato. Sì. Tre volte quindi. Sì, lo facciamo sentire nella vostra versione. Lo facciamo sentire dal vivo. Dal vivo. Facciamo sentire. Dal vivo. Ah, bene, bene. No, stasera ci siamo organizzati così, più ne facciamo, più contenti siamo. Ma sembrava qualcuna, un uccellino gli aveva detto guarda che non facciamo tantissimo dal vivo. Purtroppo, però la voglia. Non ci avrei mica fatto provare 8 giorni di seguito per non fare i pezzi. No, certo, no, quindi... E quindi adesso ci fate la canzone. E quindi adesso facciamo Pietro. Che si dimentica. Eccomi qua. Che si dimentica. Stefano Balsamo. Che si dimentica di Gesù. No. Prego. is your face. Tell the wrong leader. Never near the place. That's true, I am sure sir, you with them. You're right by his side, and yet you deny. I tell you, I was never ever with him. And I say you too, it looked just like you. I don't know him. Peter, don't you know what you have said? It's what he told us you would do. I wonder how you know. Tre volte l'ha rinnegato, eh. Tre volte. C'era il microfono che aveva un problemino. Sì. Se volete riprovare, se volete rifare. Va? Adesso va. Sì, adesso va. Sì. Se volete riprovare. Poi puoi fare un... Paganini non ripete, ma puoi ripetere un secondo. Se volete riprovare. Un flash, dai. Vai. Ah, solo l'inizio. Sì. La parte che... Quella parte che si è sentita leggermente... I think I see you somewhere. I remember you were with that man. They took away. I recognize your face. You got the wrong man. Ma vi divertite tanto che voi comunque, è pazzesco, veramente bravissimi, complimenti, perché insomma entrate proprio nella parte. Poi diventate tutti rossi anche mentre cantate, vedete? Fate l'estensione. Beh, il diaframma, tutti questi discorsi, poi il caldo. Che poi, in realtà spingiamo come i pazzi, ci divertiamo, bella finita. Va bene. Volete che facciamo ascoltare subito Erode? Sì, ecco, io non mi spiego appunto nell'opera questo pezzo, non me lo spiego. È un Charles a livello musicale. Sì, è proprio una mosca bianca. Sì, vabbè, è una necessità di spettacolo. Una concessione. È proprio una necessità di spettacolo. È scrivere un personaggio grottesco, metterlo in scena, ci vuole un alleggerimento. E infatti rompe, no? Sì, alleggerisce tantissimo, perché se no da qui in poi non ci sarebbe più stato un momento di respiro. Invece il pubblico ha la necessità ogni tanto di respirare. Questo lo fa respirare. Anzi, lo fa proprio divertire. Ridere. E subito dopo questo cosa succede? Ci sono le frustate. Il processo e le frustate. Con queste voci tremende. Cioè, guarda. Non proprio subito, Vittorio. Cioè, prima ci sono gli apostoli che dicono possiamo ricominciare da capo, per favore. Sì, could we start again? Sì. Poi. Quello è il secondo 45 giri che è uscito. Poi vi faremo sentire dal vivo. Ok, che meraviglia. Volete che la facciamo ascoltare dalla vostra produzione? Vi va bene, Erode? Certo. Sì. Chi canta qui? È Luca Chiereghin. E quindi lo sentiamo. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples. Some from the dead. Now I understand you've got at least not what you say. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that's your divine. Change my wuthering to when that's all you need to. I'm not knowing it's so true. prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do, that's for me. I'll not let you go free. Oh, come on, king of the cheese. Potremmo cominciare da capo, per favore. Gli apostoli con in testa Maria Maddalena non sono convinti che tutto stia tragicamente volgendo al termine. Ricordano gli inizi e rimpiangono che la situazione sia sfuggita così tanto di mano a Gesù. Vorrebbero ricominciare, riportare tutto come era prima. Poi, insomma, non ci sono riusciti. Ma Comunque questo è un altro pezzo, un altro 45 giri, come dicevi tu. Eh sì, questo è un pezzo di quelli da lento, da festa delle mele. Bene, adesso invece ci sarebbe la canzone che diceva, che dice, no, anzi, prima c'è la morte di Giuda. Prima c'è la morte di Giuda, dopo questo Quareto. È disperato, disperato quel momento. Sì, scusate, cioè, la mania del microfono, quello col filo. È disperato, poverino, perché fra l'altro mi ricordo perfettamente che io stavo di lato mentre loro cantavano Could We Start Again. E io li guardavo e dicevo, ma pensa loro come sono fortunati che possono ancora pensare di ricominciare quando io invece sono destinato all'abisso, perché avevo già deciso che mi sarei tolto la vita. Sì, faccio le mie rimostranze, però c'è poco da rimostrare. Il punto è che io devo morire, perché anche appunto fa parte, no, di quel disegno divino preciso. E li guardavo lì da una parte, perché entravo dalla, mi pare guardando il palco dalla destra del palco, entravo, li vedevo e dovevo entrare già nella scena prima, proprio con tutto questo ragionamento. Io ovviamente non cantavo nel pezzo prima, però per essere dentro al personaggio dovevo soffrire di questo sentimento di inadeguatezza, di, sì, insomma, di fine, che loro non facevano altro che sottolineare con il pezzo di prima. Ecco, questo era. Ce lo fai ascoltare dal vivo? No. No, sì, volete farmi morire sul serio. Anche perché sono passati 13 anni. Perché nessuno qui, tutti, Non ci ho sperato. Tu 13 anni. Io, allora, a proposito delle esperienze musicali, no? Certo. Io avevo la US Band e facevo rhythm and blues tutte le sere. Quindi, James Brown, quindi avevo proprio la voce tarata, wah, wah, wah, ero tutto a gridare, no? Ora invece dopo mi distruggerai, dopo tutte queste cose, tutte belle pese, mi è proprio cambiata la voce e quindi dovrei proprio rientrare dentro un mondo vocale che è diverso, che non ho mai abbandonato, perché è proprio, lo sentite, insomma, sì, è la mia voce, è fatta così, è rotta, però ecco, diciamo che ho preso una strada un po' diversa, quindi già per la prima canzone abbiamo abbassato d'un tono, perché perché non ci arrivo certo, più, certo, non ci arrivi, non ci arrivo più, chiaro, boh, chiaro, certo. Faccio 50 anni al 27 di maggio, ragazzi, mica bruscolini. Quindi la morte di Giuda la sentirete nella versione, spero, di Carl Anderson. Certo, certo. Bene, bene, ascoltiamo. God, I saw him. He looked like God is dead. And he was so bad, I had to turn my head. He beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's gonna blame. I don't believe he knows I acted for our good. I'd save him all his suffering if I could. Don't believe our good. And I'd save him if I could. Forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said is gone to rue with a vengeance. The mob turned against him. You're back the right horse. What you have done will be the same of everyone. You'll be remembered forever for this. Not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kiss. Face, I know you can't hear me, but I only did what you wanted me to. Twice I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. I don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man. He's just a man. is not a king. He's just the same as anyone I know. He scares me so when he's cold and dead. Will he let me be? Does he love? Does he love me too? Does he care for me? make or break her. Pazzesco Maurizio, pazzesco. Ah, incredibile, proprio pazzesco, nel senso, io sono qua al centro, è ancora più pazzesco di te secondo me, proprio essere al centro, sei trasportato come fossi anche te, stai cantando anche te, cosa incredibile. E Jesus Christ Superstar dal vivo non l'avevo mai visto, neanch'io. In questa situazione, una cosa incredibile, bellissimo. Poi insomma così da in acustico, poi tra virgolette relativamente, insomma, ma poi averli qui davanti insomma mentre cantano, però piace anche a te cantare questa canzone, vero Vittorio? Non puoi dirmi di no. Mi piace da morire, sì è bellissimo, esagerata, proprio... È un po' poi il riassunto proprio di tutto quel percorso rhythm and blues che, sì, esatto, che io ho fatto, perché per me arrivare a questo personaggio è stato importantissimo anche dal punto di vista musicale, perché mi sono confrontato con il top dell'anima nera, con questa canzone, in particolare questo pezzo, anche Heaven on the Minds comunque, che erano brani immortali, insomma, cantati da questo mostro sacro, però insomma io ce l'ho dentro il sangue questa roba qui, anche se poi appunto sono il prete innamorato, però quello ti resterà sempre, vero? Sì. Ormai fa parte del tuo essere quello. No, vabbè, questa, cioè, I feel good, quella roba lì, cioè, sì. Cioè, sì, insomma, no, beh, io dicevo perché ormai tutti ti conoscono per quel personaggio lì. Sì, no, è viva, benissimo, ci mancherebbe, non sono mica quelli snob, no, sai, che poi cioè... a un certo punto dicono no, io Notre Dame, che palle, no, dico Notre Dame, viva Notre Dame perché mi ha fatto conoscere tanto in giro, sono contentissimo, però io qui dentro mi ci trovo tanto bene, insomma, cioè, veramente Jesus Christ è proprio una cosa che ti piglia proprio... Sì, non ti molla più, è come un virus di quelli gravi, ecco. Certo. Vabbè, il rhythm and blues è il virus. Sì. È quello, il sì, virus. Sì. Non è grave. Che poi però piace a tutti, piace a tutti, a verità. È che qui proprio è la mescolanza tra rhythm and blues e rock. Mm. E rock di quegli anni lì, che era un rock molto, molto duro. Duro, certo. Intensissimo, forte, con le voci più acute che si siano mai sentite nella storia del rock, perché da lì nasce quel modo di cantare, è di quell'epoca lì, degli anni 70, e quindi proprio è una summa dell'energia, perché il rock è energia allo stato puro, tanto è vero che un ragazzo di 15 anni non è che ama altro che non il rock, sì, per forza, perché ci si ritrova dentro. Dopo, quando diventi più maturo, allora apprezzi anche le altre forme, no? La bossa nova, il jazz, che... No, ma che discorsi? Ma Guido, no, Guido è d'accordo con me, nel senso Guido che anch'io amo la stessa cosa. Cioè io quando ho sentito Tocchigno la prima volta, ed era Tocchigno, neanche stiamo parlando di... io sono diventato matto, però cioè, rock, rhythm and blues, la, proprio il concentrato dell'energia. Poi volevo anche dire un'ultima cosa. Pino c'aveva la tunica rossa e io c'avevo la veste chiara bianca, di color sabbia. Anche questo fu una grande rivoluzione nei ruoli, addirittura nella nostra versione, nella versione di Nin, nell'idea di Nin. E poi Pino è senza capelli, nel senso che era già allora cioè sì, si rasava e aveva dietro, e ce l'ha ancora, no? Sì, la treccia, il codino. Una treccina lunghissima con questa, quindi voglio dire, completamente fuori dall'iconografia, completamente. Poi più grosso di me, perché io ero un pochino meno imponente di lui, quindi lui rosso, io chiaro, io con i pantaloni, lui con la... insomma, strana questa cosa e questa scelta, ma questo non gliene fregava niente a nessuno, perché noi eravamo dentro. Certo. E lui poteva anche essere cinese, per come la vedo io, perché arrivava da far paura, come un mattone in mezzo agli occhi. Ecco questo. Bene, siamo praticamente arrivati alla fine. E non abbiamo volutamente, giusto per chi ama questo musical, fatto sentire le 39 frustate, perché insomma mi sembra, come giustamente con quello che ci sta capitando ultimamente, e credo anche ne abbiamo prese che basta. Sì, credo siete d'accordo anche con me di non far sentire la crocifissione, insomma. E anche questo insomma no, è troppo dura, è troppo dura lì. Esatto, noi magari dopo ci salutiamo con il 41, cioè la sì, canzone, certo. Dove c'è questo pastore che passa, che poi tra l'altro passa casualmente, si è accorto dopo nel montaggio, leggevo appunto il regista, che c'era questo pastore con le pecore, sì, che passava alla fine, esatto. L'ha lasciato e l'ha lasciato lì, sì, l'ha lasciato perché, era, andava bene, era positivo, era una scena che non si poteva tagliare, ho detto lasciamolo così. È stata una cosa voluta, cioè non voluta, e quindi è stata lasciata così, e credo sia una bellissima immagine. Poi tutti questi attori, attrici che se ne vanno verso il pullman, lo stesso Giuda si rivolge indietro e dice ma cosa è successo, e poi c'è questa scena finale appunto con questo gregge, questo pastore. Sono le 23:32 qui a Radio Veneto, io direi di salutarci qui, cosa dite? Io sì, do la buonanotte a tutti. Signori, facciamo parlare uno a uno adesso. Tutti i discepoli. Cominciamo dai musicisti stavolta, va bene? Allora, pronto, ecco che arriva. Cominciamo dalla chitarra, cioè Beppe Bertolino. Eccolo. Eccoti. Il microfono che minacciosamente mi si avvicina. Tutto in diretta. Allora io ringrazio tutti, è stato un piacere essere qui a Blu Radio Veneto, è stato un piacere ancora di più essere insieme ai ragazzi qui. O ex ragazzi, no, siamo ancora ragazzi tutti, e rimettere un po' in piedi questa cosa anche se in forma ridotta, acustica, mi è stato piacevole, piacevolissimo, e io spero che magari riusciremo a fare qualcos'altro in futuro, compatibilmente con la situazione economica, con i nostri impegni eccetera. Grazie a tutti e buonanotte. Beppe, vai. Vi ringrazio per l'opportunità, è stato estremamente bello potersi rincontrare dopo questi anni e rivivere le stesse emozioni, e speriamo di avervele trasmesse con la stessa intensità con cui le abbiamo vissute, e grazie ancora per l'opportunità, perché è stato veramente un momento forte della nostra vita, della nostra crescita, della nostra generazione, certo, della nostra infanzia, gioventù. Certo. Mauro Donazzi non c'è e lo salutiamo. Stefano Balsano, Pietro. Sì, eccomi qui. È stato come un tuffo nel passato per me. I brividi nella schiena, insomma, io spero che qualcosa sia arrivato anche agli ascoltatori, perché per me è stato veramente un riprovare una forte emozione. Grazie ancora, ciao a tutti e buonanotte. Salutiamo quello che è ammalato a casa, che si chiama... Sì. Antonio Micheli, magari ci starà ancora ascoltando, che ne dici? Ciao maestro. Ciao maestro, ciao Antonio. Se ti sente che lo stai chiamando quello, ti pianta un sì. Ciao Antonio, mi limito a questo. Poi ancora abbiamo Pilato, Cesare Maggiolo. Beh, un saluto, un abbraccio personale a tutti quelli che ci hanno seguito, a quelli che ci hanno invitato qui prima di tutto, poi tutto il resto l'hanno già detto loro, io posso solo aggiungere che ci aspetta il tiramisù della Saba, ecco. Giusto per creare una nota un po' meno intensa, ecco, alleggeriamo così, va bene? Buonanotte a tutti, grazie. Visto che ti ha tirato in ballo Saba, grazie. Già, la faccia dell'ultima cena, no? Alla faccia dell'ultima cena. Beh, piacevolissimo rendersi conto che l'energia è rimasta immutata come 13 anni fa, quindi un'esperienza che, vabbè, soprattutto io e te attendavamo con ansia, con tanta ansia. Dico un grazie particolare a Pino Gesù, cioè Pino Gesù. Adesso lo facciamo parlare. Ci scappa ogni Natale, lo chiamiamo per fargli gli auguri. Cos'è, un altro aneddoto questo? Sì, sì, beh, soprattutto durante il musical il 25 dicembre, sì. Una sera che aspettavo di entrare al cinema, il classico cinema di Natale, che non è il cinema panettone, mi è venuto in mente che è il compleanno di Pino. Ero fuori dal cinema col telefono così: Gesù, buon compleanno! Nel frattempo mi passavano di fianco le persone che mi guardavano. Ho contatto diretto con l'alto. Grande Saba, grande Saba. No, grazie, grazie in particolare a Pino, perché loro hanno dato il merito a me, ma io ho solo parlato con te alla fine. Certo. Quello che ha coadiuvato e che sta sudando è stato lui, quindi beh, diciamo grazie, che... grazie davvero a tutti. Beh, io intanto devo ringraziare, prima che passiamo la parola a Pino, appunto te, Saba, per avermi detto sì, Ago, si può fare, vedo di farle, e poi hai mosso questi amici che ti hanno dato comunque una mano, sì, insomma. Sì, sì, sì, che sì, poi sì. Sia stato Pino in particolar modo, meglio ancora, insomma, Gesù ti ha dato una mano. Poi è stato sì, cioè, è stato... No, ci penso, sì. Ah, proprio? Sì, sì, ma subito. Tu... Avete mai provato a dire di no alla Saba? No. Ma perché io avevo in mente una cosa in acustico, no? Ho capito, sì. Cioè, ti metti in mente, non so, non ti metti in testa una cosa. Ecco, quello che sta parlando è appunto Gesù, cioè sì. Pino Finato. Sì, raramente capita per radio di sentire Gesù. Insomma, no, ma tu hai anche un altro nome, Catarra. Ragazzi, sono 25 anni quest'anno che facciamo Qatar, gruppo band. Storico, band storica che piaceva tanto a Maurizio, tra le prime nel padovano, e continuiamo a suonare bene, questo è positivo, molto positivo, e sono cose belle e non cresciamo mai. Pino, grazie anche a te. Comunque. Grazie a voi, è stato veramente emozionante, e do la buonanotte a tutti quanti. E arriviamo a Giuda, sì. A Vittorio, eccoci. Allora, buonanotte a tutti, grazie. Io la lacrima l'ho fatta. E grazie ragazzi, veramente mi sono divertito tanto, commosso tanto, come succede davanti ai grandi film, eh? E speriamo che, perché no, insomma, alla fine sono bastate poche mail, no? Telefonate, così, di ritrovarci ancora più numerosi e magari fare in una forma di concerto, che ne so, perché no. La lanci lì così, la butto lì, io ci sto. All'occhio minaccioso, come fa così? Beh, fatecelo sapere che veniamo a sentire. Voglio anche vedere se non venite. Ci deve essere lo striscione sotto, Blu Radio con Agostino e Maurizio. Va bene, no, grazie a voi due soprattutto, grazie alla struttura. Insomma, noi ci siamo divertiti tanto, grazie. Senti Vittorio, io te la devo strappare una promessa, sì, e una volta che mi dici di sì, ti stanno ascoltando tutti, non puoi dirmi di no. Potrei dirti di no, così così non c'è problema. Però io voglio che tu mi dica di sì. Ci vieni a presentare il tuo disco qui? Sì. Ma noi non abbiamo già parlato al telefono di questa cosa? Sì, sì. E allora, io volentieri, se okay. C'ho il tempo vengo, bene, ma che bene, ci mancherebbe. Bene, bene. Anche perché il disco mio mi farebbe anche piacere. Certo. Quindi noi ti aspettiamo qui quando vuoi, facciamo una serata solo con te. Sì, che poi non è mio, è mio con Marco Strano, sì, Massimo Manzo, ma vabbè. Che poi vedi Marco Strano, no? Che era lo scenografo di allora, con il quale l'anno scorso ho inciso un disco, quindi... Era anche 43 anni che lo conosco, però insomma, voglio dire, capite perché si tratta di amicizia qua, certo, no? Certo, ecco. Va bene, via. Senti, noi il club l'abbiamo fondato, vi spingiamo ancora una volta a riprendere in mano questo musical con la vostra, tra virgolette, compagnia. Sentito, direttore Micheli, mi raccomando. Pensateci, perché siete bravissimi prima di tutto e poi il musical è stupendo. Grazie, grazie Agostino. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Maurizio, noi ci salutiamo qui, sì, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con le nostre, con i nostri live. Questo è stato un live atipico, ma è emozionato secondo me tutti quanti. E soprattutto era dal vivo, in acustico, è una cosa non semplice per un musical, secondo me. Ringraziamo anche la nostra fotografa occasionale, Lisa, che ha fatto le fotografie stasera. E anche Daniela, che e è anche Daniela, esattamente. E Cesare, che lui ormai fa parte della, della radio, insomma. Sì, Cesare fa parte della famiglia, dai. Della famiglia. Abbiamo altri ringraziamenti da fare? No, no, il pubblico, basta. Solo il pubblico, ringraziamo il pubblico che ci ha ascoltato stasera. Sì. Quella è la cosa più importante, secondo me. Ci salutiamo proprio con la canzone che chiude l'intero, l'intera opera, cioè questa John 1941. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Jesus Christ. God yourself was the pick of the crop. Buddha was he where it's at, is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker?